Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Capitolo quarto. Diario di Jonathan Harker. Continuazione. Mi sono svegliato nel mio letto. Se il mio non è stato un sogno, mi ci deve avere portato il conte. Ho tentato di spiegarmi la faccenda, ma senza arrivare a una conclusione sicura. C'erano certo alcuni piccoli indizi, per esempio il fatto che i miei vestiti non erano piegati nella mia abituale maniera. Il mio orologio non era stato caricato, cosa che io faccio immancabilmente. Il mio ultimo gesto prima di mettermi a letto e altri piccoli particolari di questo genere. Ma non si tratta di prove, in quanto simili particolari potrebbero dimostrare che la mia mente non era nel suo stato normale. E senza dubbio non mi erano mancate le ragioni di estremo turbamento. Prove. Devo cercare. Ma di una cosa sono contento. Se è stato il conte a portarmi qui e a spogliarmi, deve aver avuto una gran fretta, perché non ha frugato nelle mie tasche. Questo diario per lui sarebbe stato certamente un mistero che non avrebbe potuto scoprire, ma me lo avrebbe portato via o distrutto. Guardo questa stanza che, se prima suscitava in me tanta paura, ora è una specie di rifugio, perché nulla può essere più terrorizzante di quelle donne nefande che volevano, che vogliono succhiarmi il sangue. Maggio. Sono sceso per rivedere quella stanza alla luce del giorno, perché devo assolutamente conoscere la verità. Ma quando sono arrivato sulla soglia, in cima alle scale, ho trovato la porta chiusa. Era stata spinta con tanta forza con lo trofichiere di pirate che si gli infissi. Ho notato che il catenaccio non era stato tirato, ma l'uscio era sbarrato dall'interno. Il mio non è stato un sogno, temo, e devo quindi agire di conseguenza. Maggio. Sono davvero in trappola. La scorsa notte il conte mi ha domandato, con il più soave dei toni, di scrivere 3 lettere. Una per dire che il mio lavoro qui è quasi terminato e che partirò entro pochi giorni. La seconda per dire che la mia partenza sarebbe avvenuta la mattina successiva alla data della lettera. Mentre nella terza dovevo scrivere che avevo lasciato il castello ed ero giunto a Bistritz. Io mi sarei ribellato volentieri, ma ho pensato che sarebbe stata una pazzia litigare apertamente con il conte nelle attuali condizioni, dato che sono completamente in suo potere. Un mio rifiuto avrebbe suscitato i suoi sospetti e provocato la sua ira. Lui sa che conosco troppe cose e che non devo vivere, perché sarei un pericolo per lui. Ho una sola possibilità, quella di guadagnare tempo. Potrebbe succedere qualche cosa che mi dia un'opportunità di fuggire. Vedevo aumentare nell'espressione dei suoi occhi i segni del furore da cui era stato preso quando aveva scagliato lontano da sé la donna bionda. Mi ha spiegato che i servizi postali erano scarsi e insicuri, che scrivendo ora avrei tranquillizzato i miei amici, e mi ha assicurato con grande solennità che avrebbe trattenuto le ultime 2, facendole rimanere a Bistritz fino al momento opportuno, qualora avessi per qualche motivo prolungato il mio soggiorno. Oppormi a lui, quindi, avrebbe fatto nascere ulteriori sospetti. Ho finto perciò di essere d'accordo con il suo punto di vista e gli ho chiesto quali date dovessi mettere sulle lettere. Dopo aver riflettuto per un momento, il conte ha risposto: sulla prima, 12 giugno. 19 giugno. Sulla seconda e sulla terza, 29 giugno. Adesso so quanto mi resta da vivere. Che Dio mi aiuti. Giugno, sul far del mattino. Ero alla finestra da meno di mezz'ora quando ho notato che qualcosa usciva dalla finestra del conte. Mi sono tirato indietro e ho osservato con attenzione e ho visto emergere la sua intera figura. Per me è stato un nuovo colpo il constatare che indossava il mio vestito, quello che avevo portato durante il viaggio, e teneva appeso a una spalla l'orrido sacco di cui le donne si erano impossessate sotto i miei occhi. Non c'era da avere dubbi sulla sua spedizione, e nei miei abiti, per di più. Era dunque questo il suo nuovo malvagio intento: fare in modo che altri mi vedano o pensino di avermi visto, per costruire così una duplice prova. La gente del luogo mi avrebbe visto impostare le mie lettere in città o nei villaggi, e avrebbe attribuito a me tutte le infamie commesse da lui. Mi fa impazzire l'idea che questo possa accadere mentre io sono rinchiuso qui, un vero e proprio prigioniero, ma senza quella protezione della legge cui perfino un criminale ha diritto, e che è il suo conforto. Ho pensato di aspettare il ritorno del conte, e sono rimasto a lungo davanti alla finestra, risolutamente. Poi ho notato certi bizzarri puntolini che volteggiavano tra i raggi della luna. Parevano minuscoli granelli di polvere che roteavano e si radunavano in gruppi di aspetto nebuloso. Nel guardarli provavo una sensazione di tranquillità e una sorta di calma scendeva su di me. Mi sono appoggiato al vano della finestra in una posizione più comoda per godere meglio di quelle aeree giravolte, ma qualcosa mi ha fatto sussultare. Un basso, miserevole ululato di cani in qualche punto remoto della valle nascosto alla mia vista. Il lamento sembrava risuonare sempre più forte alle mie orecchie e i fluttuanti corpuscoli di polvere parevano assumere nuove forme con l'accompagnamento di quel suono mentre danzavano nel chiaro di luna. Ho capito che io stesso stavo lottando per destarmi a un richiamo del mio istinto, anzi, la mia anima stessa lottava, e con la mia sensibilità attutita mi sforzavo di rispondere all'appello. Stavo per essere ipnotizzato. La polvere danzava sempre più veloce, sempre più veloce, e i raggi della luna sembravano fremere nel passarmi accanto e scivolare nell'oscurità sottostante. I corpuscoli si radunavano sempre di più, finché mi è parso che assumessero vaghe forme fantomatiche. A questo punto ho avuto un sobbalzo, mi sono risvegliato completamente, riprendendo il pieno possesso delle mie facoltà, e sono fuggito urlando da quel sito. Le forme fantomatiche, che stavano a poco materializzandosi dai raggi della luna, erano quelle delle tre donne spettrali alle quali io ero destinato. Ho preso la fuga, e in un certo modo mi sono sentito più sicuro nella mia camera, dove non penetrava il chiaro di luna e la lampada ardeva vivace. Dopo un paio d'ore ho sentito come un movimento nella stanza del conte, e qualcosa di simile a un acuto gemito, subito soppresso. Poi un silenzio. Un silenzio profondo, spaventoso, che mi ha fatto gelare il sangue. Con il cuore in tumulto ho tentato di aprire la porta, ma ero chiuso nella mia prigione e non potevo fare niente. Mi sono seduto e ho pianto. Semplicemente. Mentre stavo lì a sedere, ho udito un suono nella corte esterna. Il grido straziante di una donna. Mi sono precipitato alla finestra, l'ho spalancata per sbirciare attraverso le sbarre. Lì c'era infatti una donna con i capelli scarmigliati, che si premeva le mani sul cuore come se fosse sfinita da una lunga corsa. Stava appoggiata a un angolo del portone. Quando ha visto la mia faccia alla finestra, si è scagliata in avanti e ha urlato con voce carica di minaccia: «Mostro! Dammi il mio bambino!» Si è buttata in ginocchio e, sollevando le mani, gridava le stesse parole con un tono che mi dilaniava il cuore. Poi si è strappata i capelli e battuta il petto, abbandonandosi a tutte le violenze di una disperazione illimitata. Infine si è fatta avanti e, sebbene non potessi vederla, sentivo le sue mani nude picchiare contro il portone. Da qualche punto, su, in alto, probabilmente dalla torre, ho sentito il conte lanciare un richiamo con la sua voce aspra e metallica, poco più di un bisbiglio, ed è sembrato che l'appello trovasse una risposta lontana ma possente nell'ululato dei lupi. Erano passati pochi minuti e già un branco di essi si precipitava nella corte, attraverso l'ampio ingresso, come rompe l'acqua di una diga improvvisamente aperta. La donna non ha gridato e il latrare dei lupi è stato breve. Poco dopo essi si sono allontanati, uno alla volta, leccandosi la bocca. Io non l'ho potuta rimpiangere, perché sapevo che cosa era successo al suo bambino. Per lei era meglio essere morta. Che cosa farò? Che cosa posso fare? Come fuggire da questa atroce schiavitù che è tenebra e terrore? Giugno. Prima di perdermi di coraggio sono andato senza esitazioni alla finestra dell'ala sud e sono uscito immediatamente sullo stretto cornicione che gira intorno all'edificio da questa parte. Le pietre erano grosse e tagliate rozzamente, ma la malta che le univa era stata erosa dal tempo. Mi sono tolto le scarpe per avventurarmi su quella via disperata. Ho guardato in basso una sola volta per assicurarmi di non essere annientato da una subitanea visione di quello spaventoso abisso, ma poi ho sempre tenuto lo sguardo lontano da esso. Conoscevo anche troppo bene la direzione e la distanza della finestra del conte e mi sono avviato da quella parte come meglio potevo, servendomi di tutti gli appigli. Non provavo vertigini, ero troppo eccitato, penso, e mi è parso assurdamente breve il tempo impiegato per raggiungere il davanzale della finestra e sforzarmi di sollevarne l'intelaiatura. Ero in uno stato di tremenda agitazione, tuttavia, quando, abbassandomi, mi sono fatto scivolare nell'interno attraverso la finestra, i piedi in avanti. Subito mi sono guardato intorno in cerca del conte, ma con sorpresa e sollievo ho scoperto che la stanza era vuota e scarsamente arredata con strani oggetti di uno stile abbastanza simile a quello dell'appartamento a sud e altrettanto coperte di polvere. Pareva che la mobilia non fosse mai stata usata. Ho cercato la chiave, che però non era nella serratura, e non sono riuscito a trovarla da nessuna parte. L'unica cosa che ho trovato in un angolo è un gran mucchio d'oro, monete di ogni specie, romane, britanniche, austriache, ungheresi, greche e turche, tutte ricoperte da uno strato di sporcizia, come se fossero state a lungo sepolte sottoterra. Nessuna di quelle che ho esaminato aveva meno di 300 anni. C'erano anche catene e gioielli, alcuni tempestati di gemme, ma tutti antichi e sudici. Dalla parte opposta della stanza c'era una pesante porta. Ho cercato di aprirla, poiché, non trovando né la chiave della camera né quella del portone esterno, lo scopo principale della mia ricerca, dovevo fare altre esplorazioni per non vanificare tutti i miei sforzi. L'uscio era aperto e attraverso un corridoio di pietra portava a una scala a chiocciola che scendeva ripida. L'ho presa procedendo con molta cautela perché era buia, appena illuminata da feritoie praticate nella spessa muratura. In fondo c'era un oscuro passaggio, una specie di galleria, da cui veniva un puzzo mortifero, nauseabondo, un odore di terra vecchia appena smossa. A mano che proseguivo, l'odore si faceva più vicino e pesante. Infine ho spalancato un'altra pesante porta che era socchiusa e mi sono trovato in una antica cappella cadente che doveva essere stata usata come luogo di sepoltura. Il tetto era a pezzi e in due punti c'erano gradini che portavano a cripte. Ma il suolo era stato scavato di recente e la terra messa in grandi casse di legno, evidentemente quelle portate dagli slovacchi. Non vedendo nessuno, ho cercato un'altra uscita, ma senza trovarla. Allora, ho esaminato ogni centimetro di terreno per non lasciarmi sfuggire nessuna possibilità. Dominando il terrore che mi attanagliava l'anima, sono sceso perfino nelle cripte dove la fioca luce penetrava a stento e sono entrato in due di esse, ma senza vedere altro che frammenti di vecchie bare e cumuli di sporcizia. Nella terza, invece, la scoperta. Lì, in una delle grandi casse, che in tutto erano 50, sopra una massa di terra scavata di recente, giaceva il conte. Morto o addormentato, non avrei saputo dirlo, perché gli occhi erano aperti e impietriti, ma non vitrei come quelli dei cadaveri. E le guance, nonostante il pallore, conservavano il tepore della vita. E le labbra erano rosse, come sempre. Nessun segno di movimento, tuttavia, né polso, né respiro, né palpito del cuore. Mi sono chinato su di lui cercando di scoprire qualche traccia di vita. Ma invano. Non poteva giacere lì da molto tempo, perché l'odore della terra svanisce in poche ore. Appoggiato a un fianco della cassa c'era il coperchio, perforato da diversi buchi. Ho pensato che il conte potesse avere le chiavi su di sé, ma nell'accingermi alla ricerca ho visto quegli occhi morti, e in essi, per morti che fossero, una tale espressione di odio. Anche se non era consapevole di me o della mia presenza, che sono fuggito da quel luogo e, uscendo dalla stanza del conte, attraverso la finestra mi sono arrampicato di nuovo lungo il muro del castello. Raggiunta la mia camera, mi sono gettato ansimante sul letto, sforzandomi di pensare. 30 giugno. Mattina. Queste potrebbero essere le ultime parole che scrivo sul mio diario. Ho dormito fino a un momento prima dell'alba. E appena sveglio mi sono inginocchiato, perché se devo andare incontro alla morte voglio essere preparato. Poi ho avvertito quel sottile cambiamento nell'aria che indica la venuta del mattino. Infine, nell'udire il gradito canto del gallo, ho avuto la sensazione di essere salvo. Con cuore gioioso ho aperto la mia porta e sono corso nell'atrio. Avevo visto che il portone non era sbarrato. Avevo quindi la possibilità di fuggire. Con mani tremanti di impazienza ho sciolto le catene, ho fatto scorrere i robusti catenacci, ma la porta non si è mossa. In preda alla disperazione ho cominciato a tirare, a scuotere, fino a farla vibrare sui cardini, per massiccia che fosse. Ho capito allora che la serratura era chiusa. Era stata chiusa dopo che io avevo lasciato il conte. Sono stato preso allora da una smania furiosa di procurarmi la chiave a qualsiasi costo e ho deciso immediatamente di scalare di nuovo il muro e penetrare nella stanza del conte. Il conte avrebbe potuto uccidermi, ma a questo punto la morte mi sembrava il minore dei mali. Senza por tempo in mezzo, sono corso alla finestra orientale e, calandomi lungo il muro come avevo già fatto, ho raggiunto la stanza del conte. Era vuota, come del resto mi aspettavo. Nessuna traccia della chiave, ma il mucchio d'oro c'era sempre. Passando dalla porta di fronte, sono sceso dalla scala a chiocciola e attraverso il buio corridoio sono entrato nell'antica cappella. Ormai sapevo anche troppo bene dove trovare il mostro che cercavo. La grande cassa era al solito posto, vicino al muro, e sopra di essa era posato il coperchio, non sigillato, ma con i chiodi già infilati dentro, pronti per essere fissati. Sapevo di dover frugare il corpo alla ricerca della chiave, perciò ho sollevato il coperchio e l'ho appoggiato alla parete e ho visto allora uno spettacolo che mi ha colmato di orrore fino al profondo dell'anima. Il conte giaceva nella cassa, ma sembrava ringiovanito. I capelli e i baffi bianchi erano diventati scuri, color grigio ferro. Le gote erano più piene. La pelle bianca pareva suffusa di rosa. La bocca era più rossa che mai, perché sulle labbra c'erano gocce di sangue fresco che, stillando dagli angoli della bocca, gli scendeva sul mento e sul collo. Perfino i suoi occhi cupi e ardenti sembravano incassati in una carne turgida, perché le palpebre e le borse sotto gli occhi erano rigonfie. Pareva che la bietta creatura si fosse rimpinzata di sangue. Giaceva lì come una ripugnante sanguisuga stremata dalla sazietà. Rabbrividivo nel chinarmi su di lui per toccarlo. Tutti i miei sensi si ribellavano a quel contatto, ma bisognava che lo facessi o sarei stato perduto. Nella notte imminente il mio stesso corpo sarebbe potuto diventare l'oggetto di un simile festino per le tre orride donne. L'ho frugato dappertutto, ma senza successo. Allora mi sono fermato a guardarlo. Su quel volto rigonfio c'era un sorriso beffardo che mi faceva impazzire. Ecco, era questo l'essere di cui io avevo favorito il trasferimento a Londra, dove forse per secoli avrebbe potuto saziare la sua bramosia di sangue. Tra i milioni di abitanti della città affollata e creare una nuova e sempre più vasta cerchia di mezzi demoni per perseguitare gli indifesi. Un pensiero che mi rendeva pazzo e mi ha messo addosso una voglia irresistibile di liberare il mondo da un tale mostro. Non avendo a disposizione un'arma letale, ho afferrato una vanga che gli operai avevano adoperato per riempire le casse e, dopo averla sollevata in alto, ne ho vibrato la lama contro il viso odiato. Ma mentre facevo l'atto, il conte ha girato la testa per puntarmi gli occhi addosso con la loro fiammeggiante espressione di orrido basilisco. Questa vista mi ha paralizzato. La vanga svoltata tra le mie mani ha colpito di piatto, producendo appena un profondo taglio sulla fronte. Ho lasciato cadere la vanga sulla cassa, ma mentre la riafferravo, l'orlo della lama si è impigliato in quello del coperchio, nascondendo ai miei occhi quel ripugnante oggetto. L'ultima visione che ne ho avuto è stata quella di un volto tumefatto, macchiato di sangue e fisso in un malvagio sogghigno che avrebbe fatto una bella figura nel peggiore degli inferni.